Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Bisogna chiedere a deputati e senatori di spendere qualcosa in più delle 30-40 ore settimanali che dedicano al Parlamento, in maniera che ci sia uno spazio decente per discussioni serie nelle commissioni. E che caspita, Napolitano, la sua veneranda età ancora in Parlamento, insomma, lancia questo monito ai parlamentari: di volete spendere qualche ora in più per lavorare qui e discutere in modo costruttivo sui vari disegni di legge, sulle varie materie, insomma, diciamo, questa può sembrare, detto da fuori, demagogia, populismo, però lo dice Napolitano dall'interno. Abbiamo mai detto che proprio si stracciano le vesti per lavorare di più i parlamentari, ma non parleremo di questo. Questo, come al solito, è l'esordio per cominciare Effetto Notte, raccontarvi la giornata prima in sintesi e poi entrando nel cuore di alcuni argomenti in particolare. Naturalmente, per quanto riguarda la politica, è sempre fortissimo il dibattito sull'Unione Civili, acceso, movimentato e tormentato, continua a essere così. Noi avete avuto una prova anche ieri qui in diretta Effetto Notte. Ma che cosa è successo adesso in serata, mentre già c'erano stati scambio di insulti, di provocazioni in Senato oggi? Frase di Gasparri contro il senatore del PD Sergio Lo Giudice, che gli ha detto tu i tuoi figli li hai comprati. Poi un senatore del Nuovo Centrodestra che si è sentito offeso e provocato perché forse due rappresentanti LGTB si sono dati un bacio, anche se loro dicono che in realtà non se lo sono dato, due uomini. E quindi, insomma, c'è stata parecchia bagarre. Ma, dicevo, in serata è intervenuto anche il Cardinal Bagnasco, il presidente dei Vescovi, presidente della CEI, che ha raccomandato il voto sulla legge del disegno di legge di Cirinà sia segreto. Cosa pensate? Che sia una ingerenza nelle dinamiche dello Stato italiano, insomma, del funzionamento del Parlamento, oppure un'indicazione opportuna per i cattolici? Come sempre avete due modi per intervenire con Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì a vostra disposizione, giorno e notte, oppure potete scrivere un sms al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook del programma. Secondo voi Bagnasco è entrato a gamba tesa in quelle che sono l'autonomia, insomma, del Parlamento italiano, dello Stato italiano, oppure ha dato un'indicazione ragionevole per i parlamentari cattolici? Mentre voi ci pensate, vi dico che poi parleremo anche di questa scoperta incredibile, che è il primo titolo di oggi, questa scoperta delle onde gravitazionali. Seguite Effetto Notte perché cerchiamo veramente di capire di cosa si tratti. Sintesi della giornata. La scoperta astronomica, ricercatori italiani e americani confermano la presenza delle onde gravitazionali, aperta una nuova via per la fisica. Borse, forti cali per tutte le europee, Milano la peggiore, perde il 5,6%. Banca Etruria, il tribunale la dichiara insolvente, il CSM va avanti con l'istruttoria sul procuratore di Arezzo Rossi. Migranti, via libera alla missione NATO nel mare fra Grecia e Turchia per fermare l'immigrazione clandestina. Unione Civili, il Cardinal Bagnasco, presidente dei Vescovi Italiani, raccomanda il voto sulla legge sia segreto, e in aula insulti e accuse tra i senatori e presunti baci provocatori in tribuna. L'omicidio di Giulio Regeni, il feretro del giovane ricercatore massacrato e ucciso in Egitto, è arrivato questa sera nel suo paese a Fiumicello. Secondo testimoni interrogati dai PM italiani, fu fotografato a un'assemblea e ne fu spaventato. Operazione antipedofilia, un malato di HIV tra gli 11 arrestati era già stato fermato, chiedeva rapporti non protetti. Corpo forestale, addio dal 2017, accorpamento con carabinieri o altre forze dell'ordine o amministrazioni. Industria, morto a 93 anni Renato Bialetti, il papà della Moca. E Sanremo, ottimi ascolti al festival anche ieri, questa sera i Big si sfidano a colpi di cover. Ospiti i Pooh. Parliamo quindi di questa scoperta che possiamo tutti gli effetti definire astronomica, sia perché riguarda l'astronomia e anche la fisica, e sia perché è effettivamente di grande portata. Ricercatori italiani e americani hanno potuto confermare per la prima volta la presenza delle onde gravitazionali, di cui già Einstein aveva parlato nel 1916. Con questa scoperta si è aperta una nuova era per capire i misteri dell'universo, che, detto così, restano ancora grossi misteri. Anche le stesse onde gravitazionali, voi seguite Effetto Notte perché più tardi cercheremo di farci spiegare di cosa si tratti. Intanto andiamo alle borse, mercati finanziari che hanno chiuso con forti ribassi. Milano ha perso il 5,6% e ancora una volta le vendite si sono concentrate sui titoli bancari. L'euforia dei mercati è durata un attimo. In giornata nuove raffiche di vendite hanno affossato le borse internazionali dall'Asia all'Europa, mentre anche Wall Street viaggia negativa. I timori per l'economia mondiale, espressi anche dal numero uno della Fed, Janet Yellen, che è arrivata ad aprire all'ipotesi di tassi negativi, provocano la fuga dai mercati azionari in favore dei beni rifugio, come l'oro, salito ai massimi dal maggio scorso. A spingere in terreno negativo anche il prezzo del petrolio, calato a 27,05 dollari al barile, dopo aver toccato un minimo di 26,85. Le vendite non hanno risparmiato nessuno, colpendo ancora una volta soprattutto i bancari, con il caso della francese Société Générale, che non riuscirà, come ha reso noto, a rispettare alcuni target per il 2016. Parigi ha così lasciato sul terreno il 4%, Francoforte quasi il 3%, mentre Londra ha perso il 2,15%. A Piazza Affari, nuova giornata di passione, il FTSE MIB è precipitato del 5,63%, trascinato dalle banche. UBI è crollata di oltre il 12%, Monte dei Paschi di quasi il 10%, Banco Popolare di quasi il 9%. In rialzo anche lo spread BTP Bund, dopo una volata fino a 160, il differenziale ha chiuso a 152 punti base dai 139,5 della vigilia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il Tribunale di Arezzo ha dichiarato lo stato di insolvenza della vecchia Banca Etruria, rigettata l'eccezione di costituzionalità sul decreto salvabanche presentata dagli avvocati di Lorenzo Rosi, ultimo presidente dell'istituto. La difesa però ricorrerà in appello. Il Tribunale fallimentare di Arezzo ha dichiarato lo stato di insolvenza della vecchia Banca Etruria. Da qui parte ora l'apertura del fascicolo per bancarotta fraudolenta da parte della Procura Aretina. Sta dunque per aprirsi un capitolo ben più grave sulla vicenda del dissesto finanziario dell'istituto di credito. Verranno prese in considerazione le decisioni e gli atti degli ultimi 10 anni, focalizzando in particolar modo su quanto accaduto dal 2012 in avanti. E non si esclude che la lista degli indagati potrebbe allungarsi. Sotto la lente degli inquirenti ci saranno dunque fidi, concessi, consulenze, politica dei compensi decisi dagli ultimi 2 CDA. Al momento le ipotesi di reato sono state l'ostacolo alla vigilanza, l'emissione di fatture false, la mancata comunicazione di conflitti di interesse e la truffa. Quest'ultimo dossier è ancora in fase di sviluppo. In procura stanno continuando ad essere ascoltate persone che ritengono di essere state raggirate e indotte all'acquisto delle obbligazioni subordinate. Ora però l'inchiesta farà inevitabilmente un salto di qualità. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Arezzo. E siamo al tema dei migranti. Mentre il governo tedesco annuncia che intende prorogare di 3 mesi i controlli alle frontiere a causa del grande flusso di profughi, ora è ufficiale anche la NATO sarà in campo per fermare l'onda di profughi dalla Turchia verso l'Europa. Poi capiremo in che modo interviene anche la NATO. Passiamo alla politica italiana col dibattito sul disegno di legge relativo alle unioni civili. È solo l'esame degli emendamenti. Il voto sul DDL Cirinnà comincerà martedì, ma il clima nell'aula del Senato è a dir poco infuocato. La giornata comincia con le polemiche sul regolamento. Le opposizioni di centrodestra contestano la scelta di illustrare le modifiche tutte insieme, non articolo per articolo. Paolo Romani, capogruppo Forza Italia. Come possiamo oggi illustrare tutti gli emendamenti quando non sappiamo quali saranno gli emendamenti su quali si andrà effettivamente a votare? Una scelta che si espone a contestazioni sul profilo della costituzionalità. In realtà l'accusa è che il PD voglia allungare i tempi per trovare un'intesa con il nuovo centrodestra e al suo interno. Ma il PD respinge le accuse. Il capogruppo Zanda. C'è un pezzo del Senato che questo provvedimento non lo vuole. Ma la seduta si infiamma con gli attacchi di Gasparri allo giudice, il senatore Dem, che in Norvegia ha avuto un figlio con la pratica dell'utero in affitto. Non è la legge Cirinnà, perché noi stiamo facendo tutto questo per l'articolo 5 che serve allo giudice. La legge per comprare i bambini non si può fare e chi li ha comprati dovrebbe dirci quanto li ha pagati. E non manca la polemica di Giovanardi, che denuncia un bacio provocatorio tra 2 esponenti uomini delle associazioni omosessuali in tribuna ospiti. Se loro sono d'accordo che 2 uomini vengono in tribuna a baciarsi per provocare il Senato, io dico che non è decoroso. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E vi dicevo che poi in serata il Cardinal Bagnasco, presidente della CEI, dei Vescovi Italiani, ha raccomandato il voto sulla legge Cirinnà sia segreto e la vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli, raggiunta al telefono, ha commentato: chiedo rispetto delle istituzioni della Repubblica Italiana perché abbiamo regole di funzionamento e sedi per prendere tutte le decisioni che servono. Secondo voi è stato opportuno questo intervento del Cardinal Bagnasco? Si tratta di ingerenza in uno Stato che è lo Stato italiano. Mentre scrivete pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, parliamo anche del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso della Lega Nord sulle presunte irregolarità nelle raccolte delle firme di alcune liste a sostegno della candidatura di Sergio Chiamparino, che è l'attuale vicepresidente della regione Piemonte. Confermata dunque la sentenza del TAR del Piemonte dello scorso luglio, che già aveva dato ragione al presidente Chiamparino. La Camera ha dato il via libera all'utilizzo delle intercettazioni a carico di Silvio Berlusconi, chiesto dai magistrati di Bari. Il procedimento è quello che vede il leader di Forza Italia indagato per aver indotto Giampaolo Tarantini a tacere informazioni in suo possesso e a rendere dichiarazioni mendaci nel processo Escort, vi ricordate, nel quale l'imprenditore Tarantini è stato già condannato in primo grado. E siamo all'omicidio di Giulio Regeni. Il feretro del giovane ricercatore massacrato e ucciso in Egitto è arrivato questa sera nel suo paese a Fiumicello, dove domani si terranno i funerali. E per quanto riguarda le novità sulle indagini, si apprende che Giulio Regeni era stato fotografato da uno sconosciuto l'11 dicembre scorso in un'assemblea di un sindacato indipendente egiziano, e questo fatto lo aveva impaurito. Lo hanno riferito al PM Sergio Calaiocco tre ricercatori universitari che sono stati sentiti in procura. La pista seguita ora dagli inquirenti è che il delitto possa essere legato all'articolo scritto dal giovane con uno pseudonimo il 14 gennaio successivo e pubblicato sull'agenzia Nena News, in cui riferiva anche di questa assemblea. E va segnalato che la giovane attivista egiziana Mona Seif è indagata in Egitto per aver pubblicato sulla sua pagina Facebook, in seguito appunto all'uccisione di Regeni, un'esortazione a non andare in Egitto in solidarietà al povero Regeni. L'inchiesta ipotizza per Seif un danno alla reputazione e all'economia dell'Egitto, in particolare quella turistica. Quindi ci possiamo chiedere se Giulio l'hanno torturato a morte, come sappiamo, cosa potrebbe succedere a questa ragazza, a questa attivista. Alla comunità internazionale speriamo che tenga alta l'attenzione su di lei. Messico è di almeno 52 morti il bilancio dell'ammutinamento e del tentativo di fuga nel carcere Topo Chico di Monterrey in Messico, lo ha reso noto il governatore della città. E siamo di nuovo sulle notizie italiane. Addio al corpo forestale. Fissato al 1 gennaio del 2017, i provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, il transito del personale del corpo forestale dello Stato nei carabinieri o in altre forze dell'ordine o in altre amministrazioni, secondo i contingenti stabiliti, avranno effetto contestualmente a decorrere dal 1 gennaio del 2017. Questo è quanto si legge nel decreto attuativo della riforma della pubblica amministrazione sulle forze di polizia e la forestale. Cronaca adesso con un'operazione antipedofilia dai risvolti pesanti. Un prete e un malato di HIV sono gli arrestati che fanno più scalpore, insieme ad un allenatore di calcio giovanile, tra gli 11 finiti in manette tra Lombardia ed Emilia per pedofilia. L'indagine è nata dalla denuncia di una madre, insospettita da alcuni SMS sul telefono cellulare del figlio sedicenne. I ragazzi coinvolti nel giro di prostituzione solo inizialmente si presentavano come maggiorenni sui social network, ha precisato il comandante dei Carabinieri di Brescia, Giuseppe Spina. I minorenni, prima di offrire le loro prestazioni sessuali, rendevano gli adulti con cui avevano fissato gli incontri consapevoli della loro minorità. I rapporti sessuali si consumavano poi in luoghi appartati in cambio di regali o piccole somme di denaro. Sgomento e dolore della curia per il coinvolgimento di Don Diego Rota, che prestava servizio a Solza nella Bergamasca. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura, lutto nel mondo dell'industria, non solo, perché è morto ad Ascona in Svizzera a 93 anni Renato Bialetti, considerato il papà della caffettiera Moka. Toc toc toc toc toc toc toc. Buonasera, sono l'omino coi baffi. Ricordate questo carosello? Certo, non tutti guardavamo la TV alla fine degli anni 50, ma ancora oggi tutti i prodotti Bialetti sono firmati dal celebre omino coi baffi, il personaggio nato nel 1958 dalla penna di Paul Campani. È il papà di questa reclame ed erede della caffettiera Moka, su cui questo omino distinto è raffigurato mentre solleva il cappello. Renato Bialetti è morto ad Ascona, nel Canton Ticino. Aveva 93 anni e la caricatura era sua, anche se ormai con i baffi imbiancati. Vissuto Domegna, città sulle rive del Lago d'Orta, per decenni capitale del casalingo, e cresciuto nell'azienda di famiglia fondata dal padre, Alfonso Bialetti, nel 1919, a Crusinallo, nel Verbano. Un'officina per la produzione di semilavorati in alluminio, dove nel 1933 il capostipite inventa un oggetto che rivoluzionerà per sempre il modo di preparare il caffè a casa. E Renato dà un volto alla Moka Express, la caffettiera dal design Art Deco. E nel 1993 cede l'azienda a Rondine Italia, settore pentolame in alluminio, proprietà dei Ranzoni, due imprese familiari intrecciate, tanto che Renato era tornato a Omegna nel 2013 in occasione dell'80° anniversario della Moka. Prodotto Bialetti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La notizia extra di oggi è che la depressione è un'eredità del DNA lasciato dai Neanderthal, così come la predisposizione a alcuni difetti del sistema immunitario, metabolico, della pelle, persino la dipendenza dalla nicotina abbiamo ereditato da Neanderthal. Lo hanno dimostrato ricercatori della Vanderbilt University di Nashville, mettendo a confronto gruppi di geni isolati da resti di neandertaliani come quelli di individui moderni sani. Verrebbe quindi da questi antenati l'aumento di rischio di dipendenza da nicotina, come dicevo, così come quello della depressione. Un gran numero di frammenti del DNA di questi antenati associato ad effetti psichiatrici e neurologici. Ci sono vari elementi che ci hanno passato, che hanno così dato dei vantaggi all'adattamento quando 40.000 anni fa emigrò l'uomo di Neanderthal fuori dall'Africa. Altri invece sono svantaggiosi, come per esempio questo della depressione. Quindi ci ha lasciato, diciamo, questa bella eredità. Grazie tante a Neanderthal. Ci fermiamo adesso perché tra poco c'è la viabilità, però voglio già dare un'occhiata ai vostri messaggi a proposito dell'intervento del Cardinal Bagnasco questa sera in un dibattito già molto acceso come quello sulle unioni civili. Ha detto che il voto sul DDL Cirinnà sia segreto. Che cosa pensate? Che sia un'indicazione opportuna per i parlamentari cattolici oppure, come dice qualcuno, un'ingerenza nelle dinamiche e anche nei tecnicismi, insomma, del Parlamento italiano, dello Stato italiano? Anna scrive: penso che Bagnasco debba occuparsi del suo stato e non del nostro. Un altro ascoltatore scrive: voto segreto. Poi Enrica scrive: assolutamente ingerenza, detto da cristiana credente. E poi ingerenza senza ombra di dubbio, scrive un altro ascoltatore che non mette il nome: nessun politico italiano si sognerebbe di suggerire se l'elezione del Papa debba essere fatta con voto segreto o meno. Ci sentiamo un momento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E prima dell'effetto delle altre notizie e degli argomenti che approfondirò tra poco con gli ospiti, volevo sentire l'effetto dei vostri messaggi ancora al 349-238-6666, sempre su questo intervento in serata di Bagnasco nel movimentato già dibattito sulle unioni civili. Antonio dice: stiamo diventando un popolo di froci e pederasti, che tristezza. Poi un altro messaggio: anche il Portogallo ha appena approvato le adozioni gay, ma non la stepchild, le adozioni, nel senso di bambini, quindi dagli orfanotrofi. Noi stiamo col Burundi e viva la CEI. Davide da Milano. Poi Elena dice: Bagnasco ha fatto benissimo. La Fedeli, cioè la vicepresidente del Senato, dice: una giacobina. Lo giudice ha comprato i bimbi e Gasparri ha ragione, a proposito della bagarre politica che c'è stata oggi in Senato. Poi Lino da Pesaro: è una vera e propria ingerenza quella del cardinale, come sempre, da parte della Chiesa su leggi che riguardano solo lo Stato italiano. E poi si ha coraggio di criticare, dice, l'Arabia Saudita per la loro politica condizionata dalla religione islamica. Adesso vi ricordo invece, se avete acceso in questo momento anziché puntualmente, ricordatevi alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. La scoperta astronomica, ricercatori italiani e americani confermano la presenza delle onde gravitazionali, aperta una nuova era per la fisica e per l'astronomia. E poi sulle unioni civili, Bagnasco dice ci sia il voto segreto e poi dal governo dicono decide Grasso, polemica intanto oggi in aula. Le banche impicchiata sui mercati, Piazza Affari sprofonda, il Fondo Monetario Internazionale dice la ripresa del mondo è modesta, rischi al ribasso. Banca Etruria è insolvente, così è stata dichiarata dal Tribunale. E poi scoperte le onde gravitazionali, dicevamo prima, via libera alla missione NATO contro i trafficanti nel Mare Egeo, un'operazione richiesta da Grecia, Turchia e Germania, inizieremo presto, dicono. E poi il Messico, rivolta in carcere, finisce nel sangue, 52 morti, mentre la prossima settimana il Papa sarà proprio in Messico, in un altro carcere del paese. Pedofilia, 11 arresti, tra questi anche un sacerdote, un malato di HIV. E poi Sanremo che macina record, anche la seconda serata è andata benissimo. Sentiamo un pochino della terza serata, che sta succedendo? Marcello, un mimo francese che si è immerso in una vasca, l'ho visto in questo momento, tanto per raccontarvi. Non è il momento della musica, c'è ancora Conti che sta evidentemente presentando un po' il programma di questa sera. Invece presentiamo Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto, non ti faccio scendere Buonasera. La scalinata. Ecco, stavo chiedendo cosa devo cantare. Tu hai una bella voce, potresti anche intonare. Se sicuramente, vuoi. Purtroppo canterò la canzone stonata dai mercati. Sì, molto stonata dai mercati, perché c'è stata questa breve, illusoria, come possiamo dire, effimera euforia ieri, quello che potevamo consolarci, la borsa di Milano che ha chiuso con un più 5, diceva ma forse c'è un rimbalzo delle borse. Mi pare che oggi di nuovo l'illusione è sfumata, completamente deflagrata. Esatto, purtroppo è riprecipitato tutto. Sono tempi di grandissima volatilità, di grande impatto della speculazione, perché è chiaro che di fronte a oscillazioni di questo genere c'è gente, non dimentichiamolo, che ci guadagna tantissimi denari, questo è evidente. Ci sono dei momenti anche di grande irrazionalità dovuti alle scelte automatiche che fanno soprattutto i grandissimi fondi di investimento, i fondi di assicurazioni e i grandi fondi internazionali, perché una volta che i mercati raggiungono determinate soglie scattano le vendite in automatico, e queste naturalmente innescano un ulteriore processo di ribasso dei listini. Ma quindi cosa vuol dire, che non sono capaci di fare quello che fanno, o lo fanno apposta per una serie di motivi? No, sono assolutamente capaci, lo fanno sulla, però rispetto a delle soglie che sono fissate per dei mercati che ragionano su lunghi periodi, eccetera. Invece così diventa, noi scriveremo domani un commento che dice che così i mercati diventano degli yo-yo, perché sono praticamente delle montagne russe, degli algoritmi, dei computer e non degli uomini. Quindi bisogna rivedere certi meccanismi. Non sarebbe male. Cosa consiglieresti a dei risparmiatori che dicono che devo fare? Che devo fare adesso? No, questo è molto difficile. Domani comunque consiglio di leggere il giornale, questo si consente di fare un po' di pubblicità, perché ci sforzeremo con grande dovizia di particolari per spiegare come si fa a difendersi, a far sopravvivere i propri risparmi, a difendersi nei tempi della grande volatilità. Questo ci saranno moltissime informazioni su questo. E, indubbiamente sì, forse è il caso di ripensare anche un po' a questi meccanismi. Non a caso spesso le autorità di regolazione nazionale intervengono, per esempio a bloccare le vendite allo scoperto, che sono uno dei grandi fautori, catalizzatori di questo tipo di speculazioni, ma purtroppo sono ancora strumenti molto deboli rispetto all'ondata, allo sciame speculativo mondiale che colpisce poi un paese, un altro, alcuni titoli ad altri e altri no, insomma. Quindi senti, ma le previsioni, tu dico che debba fare tu con la sfera di cristallo, però avrai sentito, avrai qualche analista letto eccetera, che ti sembrano? Ma guarda, le previsioni dicono tutti che ci saranno, questo tipo di volatilità durerà ancora molto a lungo, che per adesso è in atto una sorta di attacco, diciamo così, alle strategie delle banche centrali da parte dei mercati speculativi, che stanno dando troppo credito agli annunci, alle promesse che sono state fatte dai banchieri centrali, prima di tutto dalla BCE, di una nuova imponente immissione di liquidità. Per adesso c'è il limite dei 60 miliardi al mese, ma il mercato sta già quotando una necessità teorica attesa di 90 miliardi al mese di immissione di liquidità. È una somma che non è sicuro che la BCE possa sostenere, anche se Draghi ha sempre detto che interverrà con tutti i mezzi che serviranno e senza limiti. È una vera e propria sfida a scacchi, o peggio all'OK Corral, diciamo, tra gli speculatori e le banche centrali, e effettivamente per BCE, Fed e non solo, sono giorni molto importanti, e sono giorni di test che si vedranno il 10 marzo, perché è quella la data in cui soprattutto la BCE farà questo annuncio di una nuova revisione della politica monetaria. Farei sentire, visto che sta iniziando adesso, qualche nota, ci alleggeriamo per un attimo, Alberto Orioli, con Noemi che sta per cantare Dedicato, se non sbaglio, era di Loredana Bertè negli anni 80, primi anni 80, Vediamo un po' la sua interpretazione, perché è la sera dei big che cantano le cover. Buonasera! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai per dimenticati, ai playboy finiti ed anche per me. Invece dedicato ai risparmiatori era anche il maxi, sicuramente alle banche, Alberto Rioli, il maxi decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, no? Che cosa c'è dentro alla fine? Fammi fare una battuta, dedicato anche a chi ha cominciato a creare quel mostro di debito pubblico italiano, perché accadeva proprio in quegli anni là ed è una delle nomi principali... cognomi voglio sentire, nomi e cognomi. Tutta la classe politica degli anni Ottanta sostanzialmente. E che, sì, quel fardello che ci troviamo addosso oggi e che condiziona appunto le scelte strategiche per i nostri risparmiatori e per la nostra politica economica, purtroppo per la nostra forza all'interno dell'Europa. Mi dicevi del provvedimento del governo, è stata varata un pezzo importante di riforma del nostro sistema creditizio dopo la riforma dei popolari che ha innescato questo risico bancario che sta creando delle aggregazioni tra banche popolari e le prime 10 le costringe a trasformarsi in SPA e a quotarsi e quindi crea più trasparenza, più possibilità di contendibilità del controllo eccetera. È stata fatta anche la riforma delle BCC, le banche di credito cooperative, altre piccole enti di credito che sono molto radicati sul territorio, che avevano problemi di modernizzazione nella governance eccetera, stiamo parlando di 364 banche che erano aggregate in 15 federazioni locali, in 3 grossi poli di interesse nazionale, insomma è una realtà ramificata che verrà un po' regolamentata, semplificata e quant'altro. Ci sarà un nuovo rapporto a rete, diciamo così, rispetto a una grande holding unica che avrà 1 miliardo di capitalizzazione, che si gestirà poi grandi indirizzi di controllo e di strategie e aggregherà le altre piccole con questi contratti di gestione che sono approvati appunto in questo decreto varato dal governo. Grazie Alberto Rioli. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. E a domani con il sole. Dedicato all'amore ci piace, intanto i vostri messaggi. Gianfranco dice: Bagnasco, pensi al voto per eleggere il Papa, la religione, non Dio e l'oppio dei popoli, dice questo ascoltatore. Poi Tonino da Civitavecchia: Bagnasco dovrebbe occuparsi dei segreti che sempre più spesso coprono preti macchiatosi di reati contro i minori, la laicità dello Stato deve essere sovrana. Continuate quindi con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Tempo di una pausa. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Vierjack, un bacio a mezzanotte, ci sono i Big stasera, la terza serata di Sanremo, che si stanno cimentando nelle cover, quindi stanno facendo canzoni di altri, stanno provando anche in queste performance. Poi ci collegheremo più tardi con Sanremo, intanto facciamo qualche intermezzo. Roberta Giordano insieme a voi come sempre fino alle 22. Voglio dare un altro sguardo ai vostri messaggi, tra poco ci colleghiamo però con Washington per capire cosa sono queste onde gravitazionali che oggi sono apparse con una scoperta sensazionale. Rioma scrive: prete arrestato per pedofilia, che dice Bagnasco, ultimo giapponese di una guerra già persa contro il progresso e la civiltà, curioso che proprio lui dimentichi la massima sulla pagliuzza e la trave, conferma dunque che il contrario di fede e ragione, il contrario di ragione è torto. A proposito dell'argomento che avevo sottoposto questa sera in serata a Bagnasco, il presidente dei Vescovi Italiani è entrato nel dibattito su unioni civili nuovamente dicendo ci sia il voto segreto sul DDL Cirinnà e ci sono state molte reazioni positive, negative. Poi Roberto da Roma dice: ennesima riprova della permeabilità delle istituzioni italiane della sfera religiosa cattolica, la laicità è una parvenza, povera Italia. Ma vi ricordo intanto le notizie principali e poi tra poco ci collegheremo con Washington. La scoperta astronomica di cui parleremo tra pochissimo, ricercatori italiani e americani confermano la presenza delle onde gravitazionali. Borse forti cali per tutte le europee, Milano la peggiore perde il 5,6%. Banca Etruria e il Tribunale la dichiara insolvente, il Consiglio Superiore della Magistratura va avanti con l'istruttoria sul procuratore di Arezzo Rossi. Migranti, via libera alla missione NATO nel mare fra Grecia e Turchia per fermare l'immigrazione clandestina. Unioni civili, il Cardinal Bagnasco, presidente dei Vescovi Italiani, raccomanda il voto sulla legge sia segreto e in aula intanto insulti e accuse tra i senatori e presunti baci provocatori in tribuna. L'omicidio di Giulio Regeni, il feretro del giovane ricercatore massacrato e ucciso in Egitto, è arrivato questa sera nel suo paese a Fiumicello. Secondo testimoni interrogati dai PM italiani, fu fotografato a un'assemblea e ne fu spaventato. Operazione antipedofilia, un malato di HIV tra gli 11 arrestati era già stato fermato, chiedeva rapporti non protetti. Quindi, 1916 Albert Einstein predicted the existence of gravitational waves. Today, We are glad to announce that we detected for the first time gravitational waves. Questo è l'annuncio tra ricercatori americani e italiani, questo era chiaramente italiano, in inglese insomma ha detto che ha annunciato questa scoperta straordinaria dicendo che già Einstein l'aveva previste nel 1916 queste onde gravitazionali e l'ha rilevate queste onde lo strumento LIGO negli Stati Uniti e i dati sono stati analizzati dalle collaborazioni internazionali tra LIGO e Virgo. Virgo è lo strumento italiano che è a Cascina in provincia di Pisa. È stata la collisione tra due buchi neri. I buchi neri sarebbero questi mostri cosmici capaci di intrappolare tutto, persino la luce, avvenuta 1 miliardo di anni fa. Questa collisione che ha dato poi il segnale a queste onde gravitazionali mai scoperto, mai confermato finora, analizzato appunto fra Europa e Stati Uniti. Quindi questo apre una nuova finestra sui misteri dell'universo, anche se per noi le stesse onde gravitazionali sono un mistero, e diamo la responsabilità a Federico Pedrocchi, che è giornalista scientifico, nonché conduttore qui a Radio 24 di Möbius, una rubrica, un programma di divulgazione scientifica, potete seguirla il sabato alle 21. Federico Pedrocchi in questo momento è a Washington. Federico. Ciao e salve a tutti. Che ore sono? Che ci ascoltano. Che ore sono lì? Qui le 21.37 e 12 secondi lì? Qui sono le 15.30 e la conferenza stampa di annuncio della individuazione delle onde gravitazionali è terminata circa 3 ore fa, insomma. Quindi adesso hai assimilato un grande evento. Hai assimilato il tutto, è stata una cosa emozionante. Senti, però spiegaci, perché il bello di capire l'importanza di certe scoperte, sì, è capirle fino in fondo anche per le persone più comuni, sì, come noi, no? Quindi. Ma forse intanto una prima cosa che potremmo dire è prendere le parole di David Reitz, che è uno dei 4 coordinatori dell'esperimento americano, il quale in apertura di conferenza ha detto: ci sono 2 grandi finestre che si sono aperte sull'universo. La prima si aprì quella notte di 400 anni fa, quando Galileo puntò per la prima volta un telescopio verso il cielo, e da lì iniziò un'infinita varietà e quantità di conoscenze. Questo delle onde gravitazionali è questa, è la seconda finestra che si apre, perché addirittura appunto ci darà. Sì, ma è effettivamente vero. E dobbiamo pensare che il telescopio di Galileo, che cos'era? Era uno strumentino di un metro e mezzo, con delle lentine poco più precise di quelle di un occhiale normale, insomma, e pensiamo quanta sofisticata tecnologia è arrivata in seguito per riuscire a guardare nell'universo, e siamo riusciti a vedere cose fantastiche. Le onde gravitazionali, questo primo esperimento, possiamo dirlo, è estremamente importante, ma è la prima piccola apparecchiatura che riesce a individuare queste onde, da cui si svilupperanno tante altre tecnologie, tante altre procedure di ricerca, e riusciremo a capire effettivamente una delle cose più importanti, direi forse la cosa più importante, perché certo tutto questo grande universo è gestito dalle forze gravitazionali fin dall'inizio, solo che le forze gravitazionali sono tremendamente capaci di gestire un intero universo, però come forze sono piccole, e quindi riuscire a individuarle a distanza è estremamente difficile. Questa è la grandezza di questo esperimento LIGO, che vede diverse, come dicevi tu prima, installazioni nel mondo, tutte molto connesse, un esperimento molto aperto, non c'è competizione, condividono tutto. Però certo, i 2 esperimenti americani, uno nello stato di Washington e uno in Louisiana, strettamente connessi, sono quelli che sono riusciti a individuare per la prima volta queste onde gravitazionali. Vogliamo vedere come funziona il tutto, tu dici? No, intanto sentiamo il suono per darci l'idea di come vivono queste l'anima e queste onde gravitazionali. Aspetta, lo faccio sentire qui dall'Italia, dall'Italia. sono sicuramente delle onde, questo un po' no, si intuisce. Io magari al telefono l'ho sentito molto bene, ma dovrebbe sentirsi quello che qui hanno definito come un cinguettio, a un certo momento senti... Il cinguettio più poetico qui, un pochino meno, ma sono, si può dire che sono come delle onde generate da un sasso nello stagno che increspano un po', avevo letto, increspano lo spazio temporale, la dimensione spazio temporale. Può essere una definizione. Può anche dare questa immagine. La cosa certo è estremamente difficile da capire, però insomma è stata confermata ormai in modo eclatante, è che lo spazio-tempo è qualcosa che si modifica, che si muove, che cambia, ed è questo che genera la gravità. Allora, due grandi buchi neri come questi che sono all'origine di questo segnale che è stato visto questa volta, due buchi neri che si cominciano a ruotare uno intorno all'altro e poi a un certo momento si fondono e noi abbiamo 65 volte la massa del Sole che si concentra in una sola sfera, che però è una sfera di 200 chilometri, quindi potete immaginare, insomma, come da Milano a Genova ci stanno 65 soli, a una capacità, insomma, di massa gravitazionale impressionante. Modifica lo spazio-tempo, questa roba arriva verso Terra, ma diciamo così, in questo momento noi siamo tutti colpiti da onde gravitazionali, solo che per riuscire a individuarle tu hai bisogno di un fenomeno come minimo di quella potenza. Ma che cos'è che avviene? Beh, insomma, immaginate che queste onde gravitazionali arrivino su una ciambella col buco. E non riusciremo mai assolutamente a usare una ciambella col buco per individuarla. Però immaginatevi che questa ciambella, che ha il buco circolare al centro, si schiaccia e quindi da una parte il diametro si riduce, dall'altra si allunga e la sfera è diventata un'ellisse, no? C'è una pulsazione, cerchio ellisse, questo è l'effetto dell'onda. Allora l'esperimento che cosa doveva fare? Doveva riuscire ad avere qualcosa che sentisse questo cambiamento. Allora hanno costruito questo sistema di due raggi laser, di un raggio laser diviso in due. Adesso, per non entrare in dettagli, ma a un certo momento questo sistema è stato colpito dalle onde gravitazionali e allora la distanza dei raggi è cambiata e questo ha dato per la prima volta il segnale dell'esistenza delle onde gravitazionali. Mi fermerei così, Federico Pedrocchi da Washington. Abbiamo capito che appunto è una delle seconde, la seconda maggiore scoperta da Galileo, e questo ci può bastare. Grazie Federico, e poi lo volete risentire a Mebius sabato alle 21 come sempre. Buona ciao permanenza lì negli Stati Uniti. Ciao Federico Pedrocchi. Vedo una Virginia Raffaele Donatella Versace questa sera sul palco dell'Ariston. Sapete che ogni sera interpreta una figura femminile conosciuta a livello internazionale. Sempre attenta ai dettagli, è la regina della moda al festival. Senti, qual è il legame tra Sanremo e la moda? C'è legame. Allora, già quella moda è come Sanremo, cioè metti insieme della roba a caso, poi preghi Dio che vada bene, insomma. Mentre sono serie le questioni europee adesso con Sergio Nava, perché anche la NATO è stata coinvolta su richiesta soprattutto della Germania, della Grecia, della Turchia, no? Nel controllo, nella gestione dei profughi, sì, Sergio. Bisogna dire che la NATO si è dimostrata molto molto più rapida e decisa dell'Unione Europea, perché insomma in soli 3 giorni, per i tempi diciamo invece dell'Unione Europea, sono rapidissimi, hanno messo in piedi su iniziativa diciamo turco-tedesca, in questo è stato veramente decisivo il vertice di inizio settimana tra Angela Merkel e la controparte turca Davutoglu ad Ankara, questa missione che parte con tre navi che sono già a distanza nel Mar Egeo sotto comando tedesco e che quindi muoveranno verso le coste turche, che avranno sotto l'egida NATO il compito in primis diciamo di contrastare il traffico dei migranti, quindi i trafficanti di uomini, anche raccogliendo informazioni da passare alle autorità turche, collaboreranno con la missione Frontex già dislocata diciamo nel Mar Egeo e sulle isole greche, ma soprattutto avranno anche una funzione di riportare in Turchia i migranti raccolti in mare. Questa è una novità rispetto a quello che abbiamo visto rispetto alle missioni europee, soprattutto nel canale di Sicilia, dove poi i migranti vengono portati sulle nostre coste. I mezzi NATO invece riporteranno in Turchia i migranti, i siriani soprattutto, e scappano da una guerra devastante, e quindi riporteranno i campi di accoglienza turchi. Il tutto però, uno può dire, beh, allora tutto bene, qualche fisce bene, c'è una innanzitutto non no non ci sembra che sia così. Innanzitutto ecco, ora ti possiamo sentire Roberta. Innanzitutto no, perché chiaramente resta il dramma della crisi siriana e dei bombardamenti che continuano a esserci su Aleppo, non dimentichiamolo, e il dramma delle decine di migliaia di persone che aspettano di entrare in Turchia. In secondo luogo c'è sempre il doppio gioco della Turchia. Oggi Erdogan ha confermato quello che era stato reso noto nei giorni scorsi dall'iscrizione di un sito greco, e cioè che ha minacciato pesantemente sia il presidente europeo Tusk sia il presidente della Commissione Juncker a metà novembre, dicendo: se non mi raddoppiate i soldi per, diciamo, il piano di accoglienza congiunto di profughi in Turchia, ve li spedisco tutti, vi carico i profughi sui bus e vi mando 3 milioni di persone in Grecia, che fate, li sparate? Testuale. E ha detto: noi turchi non siamo idioti, possiamo diciamo, portare pazienza, poi però alla fine. Quindi, come dire, un Erdogan ancora muscolare, ancora minaccioso verso l'Europa. Quindi non diciamo, la situazione è tutt'altro. Le cose non sono così appianate. E non dimentichiamo, la Germania ha detto che estenderà la sospensione di Schengen e quindi controlli le frontiere fino a metà maggio. Quindi ancora fiducia ai minimi in Europa per quanto riguarda Schengen. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre insieme, abbiamo appena parlato di Europa e adesso vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti. Unioni civili, con l'intervento in serata di Bagnasco, presidente dei Vescovi, che ha detto: il voto sul DDL Cirinà sia segreto. Con tutte le reazioni che ci sono state, il governo dice decide Grasso, che è il presidente del Senato. Poi le banche in picchiata sui mercati, Piazza Affari sprofonda, ancora una giornata nera per le borse. Il Fondo Monetario Internazionale che dice la ripresa del mondo è modesta. Banca Etruria, il tribunale dichiarata insolvente. Poi ne abbiamo parlato di questa scoperta delle onde gravitazionali già previste da Einstein nel 1916, sarebbero nate dalla collisione fra due buchi neri un miliardo di anni fa. E siamo all'appuntamento con YouZone, perché vuole essere questo un punto d'incontro tra voi e la zona europea, gli europarlamentari, una nuova rubrica che propone un dialogo tra appunto ascoltatori, tra elettori meglio, rappresentanti dell'Unione Europea. Sul sito di Radio 24 poi potete trovare tutti gli indirizzi, i contatti elettronici per scrivere e conoscere meglio il lavoro di questi europarlamentari che vengono presentati volta per volta. YouZone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Alessandra Mussolini. Età: 53. Nata: a Roma. Eletta in Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Con quanti voti? 83.000 voti. Partito politico? Forza Italia. Gruppo politico? Ahimè, PPE. Segni particolari? No, non ne ho. Fisici. Quante lingue parla? Inglese, italiano e napoletano. Da quanti anni è in Europa? Dal 2013. Competenze europee in 10 parole: sanità, immigrazione, clandestini. Benvenuta nella YouZone di Radio 24. Un titolo dalla Repubblica. In Francia la preoccupazione che i nostri conti minaccino tutti. I nostri conti, quelli dell'Italia, delle banche, di che intende la Francia che adesso si sveglia contro di noi? A noi ci attaccano un po' tutti. Tre azioni concrete in atto per la tutela dei diritti delle donne. In Europa c'è una situazione un po' delicata, perché appena si parla di donne poi ci sono i minori, poi ci sono altre categorie sociali che delle volte non c'entrano niente con le donne. Quindi per parlare solo di donne è complicato, ma noi lo facciamo alla difesa dei diritti, delle non mutilazioni, dei diritti umani in generale, sulle leggi, ce n'è da fare. Ha proposto un equilibrio di genere tra i migranti. Tante donne quanti uomini vuol dire meno rischi? La maggior parte di uomini sono quelli che delinquono, le donne non delinquono molto molto meno, quindi si favorisce una maggiore integrazione. Lei fa parte della delegazione per le relazioni con l'India, ci spiega cosa fate? Ma noi ci stiamo occupando soprattutto di quello che non sta facendo la Mogherini, cioè di tentare delle soluzioni anche diplomatiche per riportare a casa i nostri due marò. Cosa risponde a chi definisce l'Europarlamento un parcheggio per i politici? Beh, che non è stato lì, perché forse prima lo era. Ed è purtroppo uno sperpero di soldi, perché c'è questa doppia sede Strasburgo e Bruxelles, però lì si lavora tanto. Tutto quello che si fa in Italia l'Italia viene dall'Europa. 30 secondi per sintetizzare la sua missione europea. Soprattutto il lavoro che sto svolgendo in questa commissione LIBE sui diritti umani, sugli immigrati, sul terrorismo, la sicurezza, stiamo lavorando per questo, non semplice perché c'è sempre la prevalenza Francia e Germania, stanno ovunque e prendono tutti i posti. Nella sua carriera ha fatto molte cose, dalla recitazione al canto alla politica. Dove si è divertita di più? A fare la pizza. Questa è la mia ultima, mi manca di fare l'astronauta e poi le ho fatte tutte. Ha spopolato in Giappone con un disco, come mai ha smesso? Perché lì mi sentivo un emigrante, il Giappone è lontano. L'Europa è più riuscita o fallita? In questo momento è fallita perché purtroppo non c'è un'unità, anche vediamo quello che succede con il terrorismo, con i migranti, ognuno fa quello che vuole egoisticamente senza pensare agli altri. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Proprio adesso c'è la pausa pubblicitaria, volevo alzare su qualche canzone di Sanremo. Ci colleghiamo intanto con la nostra Marta Cagnola. Ciao Marta. Ciao Roberta, sì, proprio in questo momento pausa pubblicitaria e ti sei persa anche un momento di rivolta in sala stampa, perché questa sera ci sono proteste, il clima è caldo in sala stampa. Contro Garco, perché ho sentito, scusa Marta, che Garco non solo aveva detto all'inizio sono consapevole di essere un sex symbol, oggi ha detto, sono dove sono per la mia bellezza, grazie alla mia bellezza. Poi ha aggiunto, non imparerò mai a fare il conduttore, questo l'abbiamo capito dalla prima sera, ma tra l'altro lui pensa di essere un conduttore, in realtà dovrebbe fare il valletto, però comunque insomma. Ma soprattutto il problema è imparare a fare l'attore, vabbè, no, ho detto una cosa troppo cattiva. No, ma sai qual è la vera frase controversa che ha pronunciato Gabriel Garco, sì, sul palco? Allora, stasera ci sono le cover, Noemi ha cantato dedicato di Loredana Bertè, sì, Irgec un bacio a mezzanotte, Giovanni Calcamo e Deborah Jurato hanno cantato Amore senza fine di Pino Daniele, i Zero Assoluto hanno portato una versione lenta di Goldrake. Sì. E sai come li ha presentati Gabriel Garco? Ha detto una canzone del 1978 che si ricorderanno quelli di una certa età. Come, no, come, vabbè, si è permesso? Come si è permesso? Beh, anche lui però se lo ricorda sicuramente, vista la sua età, no? Credo proprio di sì. Sì, comunque, vabbè, noi che abbiamo una certa età e ci ricordiamo di Goldrake. Il valletto peggiore, così. Il valletto peggiore che Sanremo abbia avuto dall'inizio alla fine, poi al di là della bellezza. Senti, Marta, quindi sì, dicevi, sì, che stasera serata di cover, no, abbiamo sentito, sì, i big. Infatti, ti stavo dicendo, sì, che c'è stato un po' di problema in sala stampa perché non ci funzionano i telecomandini del voto. Quindi non potete votare, quindi chi vota? No, in realtà da casa? È successo che adesso cominciano a funzionare, ma esiste la possibilità che si rifaccia la prima votazione dei giovani con l'eliminazione. Ah. Perché la sala stampa forse non è riuscita a votare. Poveri, quindi, giovani, insomma, quindi rimessi di nuovo lì sulla brace. Quello sarebbe insomma sgradevole per loro, poveri. Marta, comunque vogliamo dire che la migliore di tutto il festival, non so se tu sei d'accordo, è Virginia Raffaele. Stasera cosa faceva la Donatella Versace? Io vedevo così. È riuscita a vederla, a intravederla dallo sì, studio. Sì, sì. No, vabbè, è esilarante. Intanto è uguale, fa impressione. Cioè è proprio, mi hanno detto 4 ore di trucco per arrivare a quel risultato. Quindi esteticamente, ma lei dice che proprio si studia e li interiorizza questi, sì, personaggi. Ieri Carla Fracci, il giorno prima Sabrina Ferilli, no? Veramente brava. Forse diciamo la vera chicca. Ci sono quei personaggi che uno ci si aspetta, no? Uno dice vabbè, fai questo, quest'altro, invece Carla Fracci, Donatella Versace, non saresti, no? Mai, non avresti mai così immaginato. Ma i Pooh ce li immaginiamo? Quando arriveranno? A che ora? No, non vedo l'ora, arriveranno dopo le 10:30. C'è stato la conferenza stampa oggi, plebiscito, anche perché canteremo. Atti, insomma, sarà veramente bello. Ovviamente ci sarà un bel medley e la festa, tra l'altro. Sono molto emozionati, come se fossero in gara, come se fossero dei giovani in gara. È una cosa molto molto tenera. Lo spirito l'hanno mantenuto nonostante i loro 50 anni di carriera. Sì, e c'è qualche ospite internazionale anche, no? Che dovrebbe, sì, c'è un ospite internazionale bravissimo, si chiama Ozier, lui è irlandese, è giovanissimo, ma ha già venduto platini su platini di dischi. Tra l'altro presenterà un progetto legato anche a una raccolta di fondi che in Italia avrà come beneficiario il telefono rosa, perché è una raccolta di fondi contro la violenza sulle donne, quindi molto importante. Molto importante e meritevole. Grazie Marta Cagnola, buon festival a te. A presto, a domani, ciao. Ciao Marta. Sulla pagina Facebook di Effetto Notte Corrado dice: il problema non sono le dichiarazioni dei vescovi, sono i parlamentari cattolici e non che valutano, li valutano come ordini. Noi ci risentiamo alle 22:00, è un ordine.